Quando sei? E la Fiorenza aveva visto la Garavelli che la strada non andava alla stazione e dice dove vai? Vado al Ponte Mattici, dovrebbe essere... Cioè se arriva, allo stesso momento. Si pare che c'è qualcuno. Dice ci deve essere qualcuno.

Allora, senti, prendiamo il presidente. Ciao, mamma.